100 passi avanti, dritti come soldatini, dandoci le spalle, pronti a premere per primi. Uno ci avrà il nome scritto sopra i San Pietrini, l'altro vivrà tanto da vedere i nipotini. Se fanno proiettili, i piombini diventano uomini, quei ragazzini. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere. Si fanno abissi, i tombini diventano smorfie, i nostri sorrisi. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere. Tu sei mio nemico, il mio rivale, la mia nemesi. Non c'è nessun trionfo in guerra, non ci sono superstiti. Non ci sono eroi né reduci. Mi pugnali mentre porto le redini di quel carro sul quale potevi esserci. Abbiamo fatto scelte, certe scelte non si cambiano. Resti fedele al tuo ruolo, anche in questo gioco sadico. Un nemico è leale, invece certi amici cantano. Altri tossici ci sputano nel piatto in cui pippavano. Lifestyle pesante, sicuro muoio di sabato. E finalmente i miei potranno vedermi in abito. Credo che ti ho sconfitto e poi ritorni di soppiatto. Ho subito troppe ad una certa, sono scoppiato. Ti odio tanto ed altrettanto non ti ho sottovalutato. Mi hai remato sempre contro, non lo davo per scontato. Ridammi ciò che mi hai tolto eppure quello che ti ho dato. Ogni volta ti ho battuto, tu sei sempre ritornato. I proiettili, i piombini diventano uomini, quei ragazzini. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere. Si fanno abissi, i tombini diventano smorfie, i nostri sorrisi. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere. L'odio plasma l'uomo come Dio fece l'argilla, così simile a se stesso che dovette maledirla. Una tesi c'ha bisogno di un contrario per capirla. Una lucciola, la luce, un insettaccio, al buio brilla. Senza me tu non esisti, senza te sono poltiglia. Ma mi ucciderei per vederti affogare in fondo a Scilla. Sei il nemico che mi stringe la pupilla e la rende vermiglia. Mi rendi infantile ed aggressivo, un balilla. Sento il tuo respiro pure se non sei vicino. Vinco ancora solo per assicurarmi un tuo delirio. Nelle vene tue ci scorre solo fango, sei un Caino, un fratello fratricida, tu mi annulli il raziocinio. Un amico di un nemico è mio nemico. Mi motiva ad imparare l'algebra e la proprietà commutativa. Prima mi supporti, poi ti sposti sperando che cada. Io ricordo tutto, quindi bada. Si fanno proiettili, i piombini diventano uomini, quei ragazzini. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere. Si fanno abissi, i tombini diventano smorfie, i nostri sorrisi. Per essermi nemico hai coraggio da vendere, mi scuso da ora perché io non so perdere.